come una malattia, una febbre sconosciuta, un giorno si è abbattuta su me. E senza alcun rumore aprì dentro di me una ferita che oramai non si cura, non si cura, forse mai più. Come una malattia che non si sa cos'è, che neanche il tempo riesce a guarire. Sul corpo scivolò, togliendomi così la forza di pensare, di parlare, e ai miei mille perché la risposta se c'è è in me. Si oscurò il sorriso sul viso e il lume negli occhi miei. Sono l'ombra della felicità all'improvviso. Come una malattia, qualcosa entrò nel cuore che neanche il sole mai guarì. E cresce a non finire, brucia da morire. Un giorno come un fior svanirò, perché ormai non si cura, non si cura questo amore.